Chiudiamo gli occhi e ci prepariamo all'invocazione alle antenate. Amate maestre, venerabili antenate, le vostre figlie vi invocano. Con noi al posto d'onore la sorella di Shakespeare. Matilde di Toscana con Beatrice di Lotaringia risveglia in noi la regalità. Hildegarda di Bingen con Richardis risvegliate in noi la visione. Christine de Pizan risveglia in noi il valore. Anita Ribeiro da Silva Garibaldi risveglia in noi la dignità. Ipazia di Alessandria risveglia in noi la sapienza. Guglielma la Boema risveglia in noi la grandezza. Maifreda da Pirovano risveglia in noi il potere. Trotula de Ruggero e Pamela Lyndon Travers risvegliate in noi la conoscenza. Miriam Magdal risveglia in noi l'immortalità. Giovanna d'Arco e Malinche risvegliate in noi la coerenza. Regine Giovanna di Castiglia, Cristina di Svezia, Semiramis, Antinea, Zenobia, Hatshepsut, Makeba, Boudicca, Sichelgaita e Teodora, risvegliate in noi il guidare con compassione. Emmeline Pankhurst con Christabel, Silvia e Adela, risvegliate in noi l'ottenimento della giustizia. Marie Curie con Irene e Eve, risvegliate in noi la tenacia. Gabriela Mistral, risveglia in noi la determinazione. Sabina Spielrein e Sibilla Aleramo risvegliate in noi la fierezza. Maria Montessori risveglia in noi la scienza. Brigitte di Kildare risveglia in noi la chiarezza. Maria Gimbutas risveglia in noi l'intuizione. Mary Wollstonecraft con Mary Shelley e Olympe de Gouges risvegliate in noi la forza. Virginia Woolf con Vanessa risvegliate in noi la lucidità. Margherita Porete con Matilde di Magdeburgo, risvegliate in noi l'onore. Aurore George Sand risveglia in noi la libertà. Charlotte Bront e Nanner Mozart, risvegliate in noi il servizio. Anne Bront con Emily, risvegliate in noi l'integrità. Jane Austen con Cassandra, risvegliate in noi l'indipendenza. Rosa Luxemburg risveglia in noi il coraggio. Gertrude Bell e Ninon de l'Enclos risvegliate in noi l'audacia. Catherine Mansfield risveglia in noi la spiritualità. Violetta Parra risveglia in noi la passione. Marian George Eliot e Elizabeth Gaskell risvegliate in noi l'intelligenza. Emilia Pardo Bazán e Florence Nightingale risvegliate in noi la perseveranza nell'ideale. Laura Ingalls con Rose, Coco Chanel con Adrienne, Emily Flöge con Helene. Risvegliate in noi l'intraprendenza. Anna Valentinovic risveglia in noi la resistenza. Kasturba Gandhi e Agitu Gudeta risvegliate in noi l'accoglienza. Elena Cornaro Piscopia risveglia in noi l'amore per lo studio. Beatrix Potter risveglia in noi l'operosità. Elisabeth von Arnim risveglia in noi il piacere. Tornate, venerabili anziane, siate le nostre guide, vegliate sul nostro cammino. Rispondete alle nostre preghiere e sedete con noi in cerchio oltre lo spazio-tempo. Sostenete la fondazione e il mantenimento della nostra capitale della Madre Italica e della nuova umanità, Amorvilla. Così sia, così sia, così è. Abbiamo aperto il cerchio, le antenate sono con noi e benvenuti a questa prima lezione, a questa prima classe del nuovo ciclo della Scuola delle Donne in Cerchio, dove parleremo delle grandi regine. Abbiamo estremamente bisogno in questo momento di ispirarci a figure di donne forti, a figure di statiste, di leader, donne che non siano delle larve come quelle che attualmente siedono nei posti di potere. Dunque, il Rinascimento che prenderò in considerazione va dalla seconda metà del 1400 alla prima metà del 1500. È stato un periodo d'oro per le donne, importante perché è stato forse il periodo della storia italica in cui le donne hanno avuto più potere, in cui le donne avevano voce e potevano muoversi liberamente. E ci sono state delle grandi donne, non erano propriamente regine perché erano le duchesse e le marchesane, come venivano chiamate, dei loro stati, dei loro feudi. A quell'epoca l'Italia era divisa, sappiamo, in tanti feudi, che venivano guidati dalle grandi famiglie nobiliari della tradizione italica, dalle antiche famiglie nobiliari. Quindi l'Italia non esisteva come nazione così come la intendiamo noi, ma queste duchesse e queste granduchesse, queste marchesane, avevano comunque, erano regine nel loro feudo, avevano tutto il potere di regine, perché potevano regnare effettivamente come regine nei loro feudi e la maggior parte di loro guidavano lo Stato quando il marito era in guerra o era malato, effettivamente erano delle statiste e delle guide politiche a tutti gli effetti. Alla fine del 400 la situazione nello Stivale era molto molto delicata, perché i feudi erano continuamente in lotta tra loro per accaparrarsi terre e approfittando di questa divisione che purtroppo sembra che faccia parte della storia del nostro paese, l'eterna divisione, approfittando appunto di questa divisione, i grossi stati che erano molto più coesi, come la Spagna, la Francia, gli Asburgo e Venezia, che faceva stato a sé, perché era la Repubblica Serenissima. Non si considerava italiana, secondo me ancora adesso non si considera italiana, approfittavano continuamente di questa divisione per insinuarsi, infilarsi e avere il dominio sull'Italia. Sta di fatto che queste donne di cui adesso vi parlo hanno passato tutta la loro vita, sia quella politica sia quella successiva, perché comunque rimaneva loro la possibilità di influenzare gli eredi, quindi di continuare a governare per vie traverse, diciamo, tutto il tempo a comprendere con chi era meglio allearsi, se con gli spagnoli o con i francesi, per conservare la giurisdizione sulle loro terre. Perché agli stati esteri, chiamiamoli, non interessava venire a governare in Italia, interessava solamente depredarla, portare via le ricchezze. Quindi andava benissimo a loro, sia al re di Francia che al re di Spagna, che all'imperatore del Sacro Romano Impero, andava benissimo che i feudatari si dichiarassero loro vassalli, in maniera che governavano invece loro, però le ricchezze poi se le portavano via. E questo, cioè, sembra che sia la storia dell'Italia, no? Che questi arrivano, poi si portano via le nostre cose. E ci lasciano qui con le briciole. Quindi se ne approfittavano continuamente questi stati della debolezza di queste città-stato, di questi feudi che combattevano tra di loro per cercare appunto di insinuarsi e di prendere il controllo della parte più grossa possibile della penisola. In più c'era anche il Vaticano, lo Stato della Chiesa che faceva per sé e che non era certo da meno degli altri nel cercare di accaparrarsi e di derubare i ricchi stati italici. Le principesse, ossia le figlie femmine di queste casate, venivano sposate giovanissime, addirittura alcune venivano promesse che avevano 4-5 anni, perché il loro ruolo era unicamente quello di essere delle pedine sulla scacchiera politica per fare alleanze o per mantenere alleanze politiche. Quindi dei loro sentimenti, delle loro preferenze non veniva minimamente tenuto conto, venivano sposate in base alle alleanze tra famiglie che convenivano in quel momento. E alcune poi addirittura venivano sposate per procura, come vedremo, non lo vedremo noi in effetti perché altrimenti saremmo andate fuori tempo, fuori tema, ma la sposa di Federico Gonzaga, figlio di Isabella Gonzaga, che è una delle regine di cui parleremo, venne sposata da Federico per procura e non lo vide mai, non lo conobbe mai, rimase per tutto il tempo che rimase viva, rimase nel palazzo con sua madre, nel feudo di sua madre, che era Anna di Bretagna, e non incontrò mai suo marito, il quale invece viveva con la concubina. Quindi questo era il ruolo delle principesse, delle figlie delle casate, no? Creare alleanze. E quindi queste ragazze si sposavano a 14-15 anni, questa era l'età in cui venivano date in mogli. E maturavano molto presto, perché possibilmente a 15 anni già sgravavano il primo figlio. E già dovevano affiancare i loro mariti in questioni di rappresentanza, quindi dovevano essere capaci di fare conversazione, essere capaci di intrattenere gli ospiti di altri stati che venivano a trovarle, quindi crescevano molto presto, diventavano adulte molto presto e molto spesso morivano prima dei 40 anni, sfinite da questa vita di continua vetrina, perché erano continuamente in vetrina, e dai parti, chiaramente, i parti uno dietro l'altro. Però c'è da dire che da adulte, in compenso, non solo aprivano le loro corti, creavano le loro corti, che erano delle corti di grandissima cultura, di grandissima arte. Le corti delle regine rinascimentali sono rimaste famose nella storia per la loro bellezza, per la loro ricchezza, per l'arte e la cultura che vi si praticavano, ma in più avevano proprio la possibilità di governare. Queste loro corti erano delle vere e proprie fucine di genialità e di novità, non soltanto in campo letterario, poetico o artistico, ma anche in campo scientifico. Alcune di queste regine erano addirittura delle mecenati delle scienze, quindi ricevevano e finanziavano invenzioni, scoperte, viaggi. Erano delle mecenati a tutti gli effetti, e spendevano effettivamente, investivano molto, perché la cultura per loro non era solamente un fatto così di piacere personale, ma era un simbolo di nobiltà. Cioè, la regina doveva essere una donna colta, perché più era colta, più finanziava le arti e più era considerata dal punto di vista, e più aumentava il suo peso politico. Quindi era sì un piacere, ma era anche quasi un dovere politico, quello di coltivare la cultura e di studiare. Queste donne di cui adesso vi parlo avevano tutte una grandissima cultura, venivano fatte studiare dalle loro famiglie durante il Rinascimento. Poi, nei secoli successivi, si comincerà a non far più studiare le donne. Chiaramente qui stiamo parlando di regine, stiamo parlando delle rampolle delle grandi famiglie, non sto parlando della gente del popolo, perché quelle proprio non esisteva che potessero studiare. La borghesia non esisteva all'epoca, quindi esistevano solamente queste famiglie ricchissime e il popolo, poi gli artigiani e i contadini. Quindi queste donne erano il cuore della vita di corte. Erano colte, studiavano anche erboristeria, alchimia, lingue, musica, e a queste donne, a queste duchesse marchesane coltissime, si contrapponevano dei mariti rozzi, spesso rozzi e ignoranti, perché gli uomini erano dediti solamente alla guerra, alle gozzoviglie e alla lussuria. La maggior parte di loro si ammalavano di sifilide, e il marito di Isabella Gonzaga ci morì anche di sifilide. Prese la sifilide perché non era, cioè, era la prassi questa, che i mariti potessero avere concubine, potessero avere amanti, potessero avere figli legittimi. Questo lo sapete, questo naturalmente non era permesso alle donne, ma agli uomini sì, e alla luce del sole, cioè non si nascondevano neanche, perché era nel loro pieno diritto, era considerato loro pieno diritto avere quante donne volessero. Per fortuna Isabella era pratica anche di erboristeria, e riuscì a non rimanere mai contagiata dal marito sifilitico, perché le donne, queste regine, queste principesse di case, di case nobili, non potevano esimersi dal loro dovere coniugale, anche se sapevano di essere tradite, anche se sapevano che i mariti erano malati, ma non potevano in nessun modo esimersi dal fare il loro dovere, perché tra i loro doveri c'era quello di, ovviamente, procreare, no? Di dare eredi alla casata. Queste donne governavano di fatto quando i loro mariti erano in battaglia, cioè spessissimo. E forse, adesso io mi viene da dire, ridendo, forse per questo il Rinascimento è stato il periodo più bello di tutta la storia italiana, perché gli uomini se ne andavano in battaglia e le donne governavano, e governavano molto bene. Non solo perché erano donne intelligenti, abili, che avevano una fortissima tradizione politica alle spalle, specialmente la famiglia Estense, quindi Isabella Gonzaga, che veniva da era un Estense di nascita, poi sposò un Gonzaga, e sua sorella Beatrice, che sposò uno Sforza, avevano una grossissima tradizione politica, e quindi avevano praticamente masticato la politica fin da piccole, erano molto in gamba nel governo, e sotto la loro guida i loro ducati crebbero moltissimo e diventarono veramente dei gioielli e dei motivi di vanto ancora per noi oggi, a livello storico, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Queste donne però, se restavano vedove, non avevano diritto, cioè potevano governare se i mariti erano vivi ed erano in battaglia o erano ammalati, come nel caso del marito di Isabella Gonzaga, quando aveva le sue crisi, ed era costretto a letto, Isabella governava con il suo consenso. Ma se restavano vedove, subentrava immediatamente il primogenito maschio. Quindi governavano in modo collaterale, diciamo, potevano governare fino alla maggiore età del figlio e poi però potevano consigliarlo questo figlio maschio, ammesso che si lasciasse consigliare. Oppure potevano usare degli stratagemmi come Matilde di Canossa, granduchessa di Toscana, che sappiamo 4 secoli prima, con una mossa strategica per poter continuare a governare le sue terre, le aveva cedute al Papa, cosa per la quale molti l'hanno condannata, l'hanno criticata, ma in realtà lei lo fece perché, essendo il Papa Gregorio VII il suo amante, lei in questo modo si garantì di poter continuare a governare e infatti lo fece. Dunque, cominciamo da Mantova. A Mantova, che apparteneva alla nobile famiglia dei Gonzaga, c'era Isabella. Isabella proveniva da Ferrara, era un'estense, quindi allora i Gonzaga erano a Mantova, gli Este erano a Ferrara, gli Sforza erano a Milano e poi c'erano i Montefeltro a Urbino. Queste sono le quattro, diciamo, dinastie di cui parleremo. Isabella e sua sorella Beatrice furono istruite, erano due figlie di Ercole d'Este, ed erano ferraresi, era una delle più antiche famiglie nobili d'Italia, e le due ragazze furono cresciute nella coltissima corte di Ferrara, studiarono letteratura classica e contemporanea, l'eloquenza, la teologia, la filosofia, con Battista Guarino, che era un filosofo, l'arte di comporre versi, la musica, ed entrambe infatti divennero poi mecenate di scienze e arti e icone anche di eleganza, cultura e intelligenza. Loro lanciavano anche le mode, sia sugli abiti, sui copricapi. Isabella Gonzaga è rimasta famosa perché aveva creato dei copricapi che sembravano veramente delle corone. Puoi mandare l'immagine, Giorgia, di Isabella Gonzaga? Così la vedete, ovviamente non potevano portare corone perché non erano regine, ma vedete che questi copricapi così alti di cui si adornava Isabella, che era la più furba, la più scafata di tutte, sembrava proprio una corona. Riesce a ingrandirlo un po'? Eccola. Ok, e possiamo dire che oggi le chiameremo influencer perché queste donne facevano la moda, orientavano i gusti non solamente nei loro feudi, ma anche all'esterno. Isabella Gonzaga, che è quella che vedete, abbiamo detto che proveniva dalla famiglia degli Estensi e sposò Francesco Gonzaga, fu definita dai suoi contemporanei, dai letterati suoi contemporanei, la prima donna del suo tempo e deteneva un vero primato in campo intellettuale e artistico. Queste informazioni che io vi passo oggi le ho prese dal libro Rinascimento Privato di Maria Bellonci, che riporta in forma romanzata la biografia di Isabella. Vedete il copricapo? Sembra proprio una corona, in realtà è un cappello. Poi avevano questo modo di creare, si creavano loro i loro modelli, se li disegnavano proprio con piume, erano sfarzosissimi con pietre preziose, con tessuti broccati, sete, velluti, erano veramente preziosissimi, cioè questi abiti costavano quello che oggi sarebbe veramente il corrispondente di milioni di euro. Isabella andò sposa a Francesco Gonzaga, il marchese di Mantova, che lei aveva 16 anni. Lui era un uomo d'arme, era spesso assente, e Isabella compensava la lontananza del marito con la compagnia e l'amicizia della sorella di suo marito, cioè sua cognata Elisabetta Gonzaga. che era duchessa di Urbino perché aveva sposato il Montefeltro, quindi i Montefeltro erano i duchi di Urbino ed era a sua volta una delle donne più colte e raffinate dell'epoca. Isabella, questa che stiamo vedendo, Isabella d'Este Gonzaga, coltivò i propri interessi in ambito artistico e letterario con impegno, studiava e affinava il suo intelletto, circondandosi dei maggiori artisti del suo tempo. Pensate che il pittore di corte di Isabella Gonzaga era il Mantegna. Queste donne creavano delle corti che erano delle vere e proprie università ed erano tutti a loro carico, quindi erano veramente delle mecenati, usavano il denaro a loro disposizione per mantenere gli artisti e per creare veramente questi nuclei di pura cultura, di confronto culturale, politico, poetico, cioè doveva essere veramente un ambiente meraviglioso, mi viene da salivare al pensiero di quanto doveva essere bello stare in queste corti. Ebbe rapporti diretti con Tiziano, con Raffaello, con Ludovico Ariosto, addirittura Pietro Bembo, Teofilo Folengo, cioè i letterati dell'epoca. Siccome Isabella aveva un robustissimo fiuto politico, era veramente un animale politico, era consapevole della scarsa forza militare e del fatto che Mantova era piccolina, non aveva la forza e la ricchezza, per esempio, di Milano, della vicina Milano. E quindi lei, quando il marito era in guerra, cioè spessissimo, e quando era prigioniero, perché anche spesso, siccome era capitano delle guardie del Papa, spesso veniva fatto prigioniero, per esempio fu fatto prigioniero dai veneziani, rimase, non mi ricordo se un anno o due, prigioniero, perché i veneziani combattevano contro il Papa e quindi lei governò e governò molto bene, tra l'altro. E lei riuscì a salvare lo Stato dai francesi, dagli spagnoli e dall'imperatore che tutte le volte con la scusa di offrirle aiuto cercavano di portarglielo via, riuscì sempre a mantenere una neutralità usando veramente una strategia, una diplomazia incredibile, riusciva veramente a camminare sul filo del rasoio, riusciva con la sua grazia, con la sua eleganza, con i doni che faceva e servendosi moltissimo anche delle sue ragazze di corte o ragazze di casa che erano istruite da lei, erano delle ragazze coltissime, tutte quante di buona famiglia, ma che erano bravissime nell'arte del savoir-faire, del vivere a corte, quindi riuscivano a far innamorare letteralmente innamorare questi re, questi ambasciatori, questi personaggi che venivano dall'estero al punto da ridurli il loro potere. Quindi Isabella usava anche questo sistema che a noi può sembrare anche abietto, ma sì, all'epoca era così. Si faceva, i costumi erano molto, diciamo, liberi, molto elastici rispetto ai nostri, era considerato una cosa assolutamente normale che una donna capo di Stato usasse le sue ragazze, usasse le sue donne in questo modo, come tipo geishe, non erano prostitute, non arrivavano poi all'atto fisico, ma erano maestre nell'arte di sedurre con la loro intelligenza, con la bellezza, con l'eleganza, con la cultura, come le geishe proprio. Quindi riuscì in questo modo a respingere sempre i tentativi di intrusione dei sovrani stranieri, riuscì addirittura a tenere a bada per tutto il tempo il famigerato Cesare Borgia, detto il Valentino. I Borgia erano una famiglia di origine spagnola che aveva deciso di piantare le tende in Italia e di occuparsela tutta. Cesare Borgia era il fratello di Lucrezia, che vedremo poi alla fine, e il figlio del Papa, perché in quel momento, nel momento di all'inizio di questa storia che vi sto raccontando, il Papa era Alessandro VI, ossia Rodrigo Borgia, un uomo che di religioso, di cattolico, non aveva niente, si comportava assolutamente come un capo di Stato e il suo scopo dichiarato era quello di far prosperare la sua famiglia, di mettere suoi eredi e discendenti dappertutto. Lucrezia e Cesare erano suoi figli perché all'epoca era assolutamente normale o comunque era consentito, tollerato che i papi avessero concubine, avessero figli con queste donne e queste concubine erano ufficialmente riconosciute, erano considerate le donne del Papa e nessuno gli aveva nulla da dire. Quindi questo Valentino, questo Cesare Borgia, era assolutamente aiutato dal padre Rodrigo, sia il Papa Alessandro VI, a fare il bello e il cattivo tempo in Italia. Il Papa, ovviamente, con le ricchezze dello Stato della Chiesa, lo foraggiava, gli metteva sull'esercito, gli dava la possibilità di andare in giro a occupare gli stati, soprattutto dell'Italia centrale, perché Cesare Borgia aveva deciso di occupare tutta la Romagna. Lui aveva deciso che sarebbe stata sua e voleva buttare fuori quindi i duchi di Urbino, Ferrara, tutta la zona che lui voleva conquistare. Scusami, Devana, E mancano 5 minuti. sì, ok, quando finisce rientriamo. Mamma mia, sto andando troppo lunga, devo andare più in fretta. Isabella era più intelligente del marito, era più abile, più colta e politicamente molto più abile. Ma Francesco non la lasciava governare, tranne quando aveva proprio bisogno, era impossibilitato a governare lui. Quindi quando poi ritornava a casa o terminava le sue crisi di sifilide, riprendeva in mano lui il governo e disfava tutto quello che la moglie aveva fatto. Isabella ebbe sette tra figlie e figli. All'età di 40 anni prese in mano per lunghi periodi il governo perché il marito era malatissimo doveva restare a letto e rimase vedova infatti a 45 anni perché il marito morì proprio di sifilide. Quindi continuò a governare come reggente per il figlio fino alla sua maggiore età e rimase però lei il punto di riferimento del popolo perché il figlio era inetto e debole. E non si occupava del benessere del suo popolo. E anche quando poi Mantova non ebbe più bisogno di lei, lei si ritirò in una sua tenuta agricola che lei guidò proprio come un piccolo stato in miniatura perché le piaceva governare bene, quindi continuò a farlo. Lasciò il corpo a 65 anni, quindi abbastanza avanti con l'età perché era una donna con una salute di ferro, contrariamente ad altre sue contemporanee, alle altre regine che normalmente morivano tra i 30 e i 40 anni sfinite dai parti. Isabella creò una cosa carina, interessante, che fece solo lei, o comunque che lei fu la prima a creare. Due piccoli ambienti nel castello ad uso personale. Uno era lo studiolo dove teneva i suoi libri e poi la grotta, che lei chiamò proprio la grotta, poi magari la facciamo vedere Giorgia, se riusciamo, la grotta, dove lei, teneva le sue collezioni di oggetti d'arte. La marchesana Isabella Gonzaga, si ritirava in questo suo studiolo. Per meditare, per scrivere, per studiare. Era un ambiente piccolino dove si stava al massimo in tre, bellissimo, preziosissimo, affrescato, dipinto, pieno di oggetti d'arte, di libri rari, ed era molto facile da scaldare. Quindi lei per lo più lavorava dentro in questo studiolo, che era molto più facile da gestire e da scaldare. Io credo che la cosa interessante di questa, ecco, questa è la grotta, vedete, che lei fece fare con la volta a botte con i gradini per scendere sottoterra. Credo che il nome, la grotta e la conformazione così non siano casuali. Io credo che Isabella, visto che conosceva le erbe e l'alchimia, avesse un'idea di che cos'era la grotta, in effetti, cioè avesse un chiaro intento di richiamo all'utero, alla vagina, ed è per questo che creò questo locale così piccolo, raccolto, senza finestre, era tutto affrescato, vedete il soffitto, che preziosità, perché io non ho le prove, ma la mia sensazione è che lo abbia fatto proprio per creare un luogo in cui lei poteva entrare in connessione con la Grande Madre. Bella Gonzaga, l'abbiamo raccontata, direi più che a sufficienza. Parliamo della sua grande amica Elisabetta da Montefeltro, Elisabetta Gonzaga da Montefeltro. Elisabetta era sorella di Alfonso Gonzaga, quindi era Scusate, era sorella. Mamma mia, oddio, sto andando insieme. Sì, era sorella del marito di Isabella, sorella di Francesco Gonzaga. Quindi era la cognata di Isabella. Questa che state vedendo è la cognata di quella di prima, perché era sorella del marito di quella di prima. Elisabetta Gonzaga sposò Guido da Montefeltro, Guidobaldo da Montefeltro, e divenne la duchessa di Urbino, perché la famiglia dei Montefeltro aveva il ducato di Urbino. Anche lei, come Isabella, era una donna di grandissimo intelletto, colta, raffinata, poliglotta, con una corte che radunava la più bella intelligenza italiana. Ancora oggi Urbino è una delle università più quotate in Italia. E le due donne erano molto molto amiche. Quando Isabella veniva esautorata dal marito, che decideva così d'amblè di riprendere possesso del governo di Mantova, Isabella chiaramente si arrabbiava perché non era, mentre le altre donne, Beatrice, Elisabetta, questa che stiamo vedendo, e Lucrezia, governarono accanto ai loro mariti, Isabella, che era la più abile, la più intelligente, invece veniva messa da parte dal marito, ossia la lasciava governare solo quando aveva bisogno, quando era in guerra, quando era malato, se no la estrometteva con arroganza e Isabella giustamente si arrabbiava. Allora cosa faceva? O andava a Milano a consigliare il nipote Sforza, oppure andava a Urbino dalla cognata Elisabetta, e lì potete immaginare la meraviglia di queste due donne, di queste due grandi intellettuali, due grandi regine, che si trovavano e che passavano del tempo insieme. Quando Elisabetta, duchessa di Urbino, sposò un uomo ipocondriaco, malaticcio, Guidobaldo da Montefeltro, era un uomo che insomma, ossessionato dalla sua salute, aveva sempre uno stuolo di medici che gli praticavano salassi e clisteri in continuazione, mangiava poco, andava a letto presto, e lei invece dava corte, apriva la corte, le sale, i saloni del palazzo tutte le sere, e teneva questi scintillanti salotti. Immaginate che il pittore di corte a Urbino era Raffaello, niente po' di meno che Raffaello, che è anche l'autore di questo ritratto che state vedendo. Ecco, Elisabetta sposò a 15 anni, sposò Guidobaldo da Montefeltro, inizialmente rassegnata al suo destino, come tutte le principesse dell'epoca, che non potevano scegliere perché erano le famiglie, le loro stesse dinastie che le designavano già da bambine. Poi però obiettivamente ebbe una vita matrimoniale tutto sommato felice, perché trovò un'intesa comunque con questo marito, che era, non era, per fortuna, non era un uomo violento, non era un uomo brutale come gli altri. E quindi lei poté dedicarsi all'arte, alla cultura, guidava anche lei lo Stato, governava anche lei lo Stato con grande saggezza e lungimiranza. Il suo ducato, che era piccolino, ma era anche questo, come Mantova, era preziosissimo. Erano ricchissimi oltretutto questi feudi, infatti facevano una gola tremenda agli re d'Oltralpe. Purtroppo lei e il marito furono tra le prime vittime del Valentino, del Cesare Borgia, perché furono proprio buttati fuori dal loro stato, e dovettero, che Cesare Borgia si arrogò, si prese, e dovettero chiedere asilo politico proprio a Isabella, quindi a Mantova, a Isabella e a suo marito, che peraltro era il fratello di Elisabetta. Quindi lei dimostrò di avere non soltanto grandi doti in campo intellettuale, letterario, artistico, ma anche amministrativo, e fu un'ottima reggente per il suo stato, anche se piccolo. Rimase vedova a 37 anni e lasciò il corpo a 55, dopo che il nuovo papa, che non era più Alessandro VI, ma nel frattempo, dopo Alessandro VI, ci fu Giulio II, che fu un misogino tremendo e che diede un sacco di filo da torcere a Isabella, perché detestava che ci fossero delle donne a governare, e purtroppo per lui invece tutti i feudi del nord erano tenuti da donne, e quindi metteva i bastoni tra le ruote a queste governanti tantissimo. Quando finalmente Giulio II morì e andò e andò al suo posto sul soglio papale un Medici, pensò bene di prendersi lui lo stato, il ducato di Urbino, e quindi buttò definitivamente fuori Elisabetta, che finì in povertà e andò a vivere in parte a Ferrara e in parte a Mantova da suo fratello. A Milano c'era Beatrice d'Este, sorella di Isabella, che andò sposa a Ludovico Sforza. Fu designata sposa di Ludovico Sforza addirittura a 5 anni. Gli Sforza volevano Isabella come moglie di Ludovico, ma Isabella era già stata promessa a Francesco Gonzaga, quindi fu offerta Beatrice, che era la secondogenita, che era ugualmente molto intelligente, anche se meno bella, e ugualmente abile nel governo, e Ludovico fu felice con questa moglie. Beatrice riuscì a rendere la corte di Milano, fu duchessa di Milano e riuscì a rendere la corte di Milano veramente un gioiello. C'era, figuratevi, c'era Leonardo da Vinci all'epoca alla corte degli Sforza, e fece in modo che il marito Ludovico, che all'epoca era solo reggente di Milano, rivendicasse il ducato per sé, quindi che Ludovico diventasse, suo marito diventasse a tutti gli effetti duca di Milano, anziché rimanere solo reggente. Quindi, nonostante si sposò solo a 15 anni e morì giovanissima, perché morì a 22 anni, in questi pochi anni, soltanto 7, pensate, così giovane, lei riuscì addirittura ad affiancare il marito nel governo del ducato e a fare in modo che il marito Ludovico Sforza, detto il Moro, diventasse, e ancora oggi è considerato uno dei maggiori rappresentanti, uno dei maggiori feudatari del Rinascimento. La sua corte fu una delle più splendide d'Italia. Lì ci operarono, oltre a Leonardo, ci operò il Bramante, quindi le opere d'arte che lasciarono questi artisti a Milano. E aveva la politica nel sangue perché era un'estense, quindi come sua sorella. La famiglia Estense non solo era una delle più antiche nobiltà d'Italia, ma erano anche quelli che erano i più bravi in politica, quelli che erano riusciti ad avere più fortuna e più ricchezza. E quindi queste due donne, Isabella e Beatrice, che erano tutte e due, erano state educate insieme fin da piccoline, perché entrambe destinate a fare matrimoni di quel genere, quindi avevano studiato il latino, il greco, filosofia, sempre con istitutori privati, ma con grandi filosofi, poeti e poeti del tempo, erano diventate delle vere e proprie statiste. Quando venivano date in spose, erano già pronte a governare uno Stato. Probabilmente era più semplice dal punto di vista amministrativo e burocratico. Credo che la difficoltà di governare a quell'epoca fosse più che altro la questione delle guerre, delle continue guerre, delle continue invasioni. Quindi queste donne dovevano essere abilissime nel muoversi, nel dribblare gli ostacoli per poter mantenere il governo sui loro stati. Quindi per poter capire di volta in volta chi era meglio allearsi, se agli spagnoli, se ai francesi, se a Venezia, se al Papa o se all'imperatore, per avere la maggior possibilità di continuare a reggere effettivamente i loro stati. Praticamente Beatrice fu a tutti gli effetti una ministra degli esteri, perché Ludovico il Moro la voleva al suo fianco quando riceveva i sovrani e i dignitari, gli ambasciatori stranieri. E quando morì, Ludovico perse totalmente la testa e abbandonò lo Stato mandandolo in rovina. Questo per dire quanto fu importante questa fanciulla per lui, dimostrando che era lei effettivamente che riuscì a rendere Milano ricca e forte com'era, non lui, perché alla morte di lei lui impazzì, perse completamente la testa e lasciò andare tutto quanto a capofitto, tant'è vero che poi gli Sforza furono cacciati da Milano. Con Isabella e Beatrice ebbero un momento di screzio durante la loro vita, perché Isabella aveva un debole per Ludovico. Isabella avrebbe voluto diventare lei duchessa di Milano, perché chiaramente Milano era molto più importante, aveva un peso politico e aveva molta più ricchezza rispetto a Mantova. Quindi Isabella, che era la primogenita, non era tanto contenta di essere finita in un ducato piccolino, che era marchesato. Fu lei che Quando lei sposò Gonzaga era marchese, fu lei con la sua bravura, con le sue tattiche, con la sua intelligenza che fece avere diciamo, lo scatto di anzianità e che da marchesato portò Mantova a diventare ducato, eh? Quindi tanto per dire l'abilità di queste donne. E quindi ci fu all'inizio questa frizione tra le due perché Isabella avrebbe voluto per sé Milano, ma era già stata promessa, quindi non ci fu niente da fare. Ma poi l'amore tra sorelle prevalse e Isabella fu sinceramente addolorata quando Beatrice morì così giovane. E per finire passiamo a Lucrezia Borgia. Lucrezia rimane per me ancora un mistero, nonostante io mi sia spupazzata le 600 pagine del libro di Maria Belonci, intitolato appunto Lucrezia Borgia, io non riesco a inquadrarla ancora adesso, questa donna, perché figlia di Papa, quindi riconosciuta da tutti, sorella di Cesare, abbiamo detto, figlia di Rodrigo Borgia, Alessandro VI, fu utilizzata per tutta la sua vita come merce di scambio per accrescere il potere della famiglia. Il padre e il fratello la davano in moglie a seconda di come gli conveniva per aumentare la loro ricchezza, il loro potere, il loro peso politico, perché i Borgia volevano l'Italia, la volevano tutta per sé e quindi usavano questa ragazza giovanissima, molto avvenente, ma vulnerabile anche perché non aveva il carisma, l'intelligenza, la preparazione, il fiuto di un'Isabella o di una Beatrice, quindi non riuscì mai a ribellarsi alla manipolazione che il Papa e il fratello operavano nei suoi confronti. Si lasciò sempre usare, diciamo. Ed ebbe, io credo, una vita veramente infelice perché pensate che il padre la diede a 13 anni in moglie al conte di Pesaro, che era un Giovanni Sforza della famiglia degli Sforza, 13 anni. E quindi già lei a 14 anni aveva già avuto il primo figlio. Poi, siccome però questo matrimonio alla fine sembrava che non convenisse più a Cesare e al padre, al Papa Alessandro VI, fecero in modo, si inventarono che il matrimonio non era stato consumato e lo fecero sciogliere, visto che tanto il suo padre era il Papa, quindi poteva scioglierlo lui il matrimonio, e la diedero in sposa ad un altro marito, Alfonso d'Aragona, perché era più, in quel momento serviva loro per i loro scopi politici. Di Alfonso d'Aragona, però, Lucrezia si innamorò, aveva credo 17-18 anni, quindi era più matura e stette bene con questo marito, era innamorata, insomma, le piaceva stare, oltretutto la corte degli Aragona era a Bisceglie, quindi era un luogo caldo, molto vicino alla cultura e al clima di Roma anche. Questa ragazzina fin da piccola ebbe ricchezze inimmaginabili perché il Papa la adorava, il padre che era il Papa la adorava e la copriva di doni, di ricchezze, le dava tutto quello che voleva e in più era utilizzata come intermediaria da tutti quelli che volevano dei favori dal Papa. Usavano lei come pedina per chiedere favori al Papa. Lei era giovane, non aveva discernimento, no? Però le facevano tantissimi regali e quindi lei incoscientemente si prestava a questa manipolazione e chiaramente però fin da ragazzina, fin da molto piccola, era abituata a ricevere doni, ad essere lusingata, ad essere riverita come una vera e propria regina. Lei però avrebbe in realtà voluto, insomma, non le piaceva essere sempre in vetrina, essere sempre esposta. Avrebbe voluto e spesso si ritirava in monastero per avere dei momenti di ritiro, per poter rifiatare, perché era fin da piccolina costantemente sul palcoscenico, questa ragazzina. E io immagino che fosse difficile perché era sulla bocca di tutti, specialmente per via della fama che avevano il padre e il fratello, che erano lussuriosi libertini, che si appropriavano, erano avidi, si appropriavano di tutto quello di cui potevano appropriarsi. E la fama che lei ebbe di rapporti incestuosi con il padre e con il fratello, che comunque non sono mai stati verificati, io credo che siano proprio derivati dal fatto che lei non riusciva a dire di no, non riusciva a ribellarsi a ritrarsi dall'essere soggiogata da queste due personalità così forti come erano Cesare e Rodrigo, che quindi la adoperavano e la manipolavano come faceva comodo a loro. Pensate che quando a un certo punto Cesare decise che neanche Alfonso d'Aragona, neanche questo secondo marito, gli serviva più per i suoi scopi, lo fece addirittura uccidere, lo fece assassinare e diede la sorella di nuovo in moglie, questa volta ad Alfonso d'Este. Ecco perché divenne la cognata di Isabella, perché Alfonso d'Este a Ferrara era il fratello di Isabella. La cosa strana è che questa ragazza che non voleva governare, che non aveva nessuna passione per la politica, che amava solo le lettere, la poesia e a che avrebbe voluto vivere in ritirata in monastero, invece fu costretta a governare perché il padre, per mostrare al mondo quanto amasse la figlia e quanto si fidasse di lei, le diede. La nominò governatrice di Spoleto e poi la nominò reggente dello Stato della Chiesa quando lui era via. E questa è una carica che nessun'altra donna ebbe prima né che avrà mai più dopo di lei. Lei, che non era minimamente interessata al governo, si trovò ad avere sempre un ruolo politico, perché anche Alfonso, l'ultimo suo marito, la teneva a fianco a sé nel governo, la consultava. Mentre Isabella, che desiderava governare, che era brava, che aveva fiuto, veniva costantemente invece messa da parte, stromessa dal marito. Questa è veramente una grande ironia della sorte. Quindi Lucrezia fu una pedina per tutta la sua vita. Pensate che la cosa molto dolorosa è che quando cambiava di marito non poteva portarsi dietro il figlio che aveva avuto. Doveva abbandonarlo, cioè per questioni di lignaggio, per questioni di eredità, i figli dei mariti morti li doveva lasciare a balia e non li vide né il figlio del primo marito né quello del secondo li rivide mai più. No, con il primo marito non ebbe figli. Ci fu un figlio di cui non si sapeva bene chi fosse il padre e che si rumoreggia che sia stato frutto di un incesto, però non c'è nessunissima prova. Io sinceramente non ci credo. Perché a me sembra, mi sembra che sia comunque un'anima bella, Lucrezia, un'anima ingenua, insomma, che ha cercato per tutta la vita di sopravvivere alle sgrinfie di questi due uomini così avidi che l'hanno usata per tutta la vita. Però ecco, questi due figli che lei ha avuto prima di sposarsi con Alfonso d'Este, lei non li rivide mai più. E uno dei due morì ragazzino, il figlio di Alfonso, il principe di Bisceglie. Il figlio del suo secondo marito, quello che lei amò e che fu assassinato, morì a 13 anni, morì ragazzino, e lei non poteva, lei lo sapeva perché le mandavano delle lettere, i tutori del ragazzino, sapeva che era malato, ma non poté allontanarsi da Ferrara perché il marito non le dava il permesso di allontanarsi, quindi non poté andare ad assistere questo figlio che era malato e morì senza rivedere mai più la madre. E con Alfonso ebbe un sacco di figli, ma molti, tre addirittura nacquero morti. Quindi metà dei suoi figli morirono, metà dei figli di Lucrezia. Ebbe 8-9 figli, morì insomma a 39 anni, sfinita dai parti perché lei era anche esile, era mingherlina e il marito si guardava bene da lasciarla in pace, no? Quindi perché il dovere di una donna era quello di continuare a dare eredi alla casata. Quindi lei morì proprio di parto. Ed era così, i suoi primi, i primi tre figli nacquero morti, perché evidentemente non era felice. Lei non era felice a Ferrara, non era felice con Alfonso, che era un uomo rozzo, contrariamente alla sorella, era un uomo d'arme assolutamente, ma anche era abbastanza brutale, era abbastanza ruvido, di nessuna. Non aveva la maniera cortese, la maniera letteraria che piaceva a lei e alla quale si era abituata stando a Roma alla corte del padre, stando stando in Vaticano. Però in assenza di suo marito, quando Alfonso era alla guerra, anche Lucrezia governava e governava con saggezza e governava in pace. Questo ci viene tramandato dalle lettere ed ebbe anche fama, cioè i suoi contemporanei scrivevano di lei che era una donna onesta, che era una donna piena di grazia, di buon senso, di delicatezza, ma evidentemente il massacro mediatico che subì da parte dei nemici dei Borgia, che distrussero l'immagine di tutta la famiglia Borgia, vediamo anche oggi, no, quanto potere ha il mainstream, quanto potere ha quanto potere hanno i media. All'epoca non c'erano le televisioni, ma c'erano altri modi comunque di infangare l'immagine di una persona o di una famiglia. E lei fu vittima proprio di questo, cioè i nemici della sua famiglia crearono questo personaggio, Lucrezia Borgia, che a noi fa venire immediatamente in mente i veleni, gli incesti, delle cose turpi, ma in realtà, cioè, lo vedete, il viso era una ragazza che cercava, che voleva vivere l'amore e che le hanno assassinato il marito. Non le hanno fatto vedere i figli, veniva continuamente messa incinta e non riusciva a portare a termine le gravidanze perché era debole, e tranne poi il quarto figlio finalmente sopravvisse e divenne poi l'erede della casata, perché riuscì finalmente a fare il figlio maschio, e purtroppo però il marito non la lasciò in pace, poi continuò a metterla incinta fino a che lei non morì. E andando avanti con gli anni, sempre più spesso andava in ritiro spirituale in un monastero femminile che lei stessa aveva fondato, dove aveva messo delle monache spagnole, perché lei amava circondarsi da queste persone spagnole, le faceva venire nella sua corte, perché in qualche modo si era questa Spagna lontana che lei non aveva mai conosciuto, forse le faceva pensare a un mondo migliore, a una situazione migliore rispetto a quella che stava vivendo. E quindi fu veramente vittima della sua famiglia e del suo nome, del padre e del fratello. E fu sempre vista in maniera altezzosa. Purtroppo Isabella Gonzaga non fu clemente con lei, perché i Gonzaga e gli Este e gli Sforza erano famiglie di antica nobiltà, mentre i Borgia erano dei parvenu, non erano degli aristocratici, erano solamente dei grandi arrivisti e non erano nemmeno italiani. Quindi, quando Cesare Borgia obbligò praticamente Ercole d'Este ad accettare che Lucrezia diventasse la moglie di suo figlio, obbligò Alfonso a prendere Lucrezia come moglie, cioè lo minacciò proprio chiaramente, era la figlia del Papa, quindi Alfonso d'Este non poté ribellarsi, non poté rifiutare di sposare questa donna, ma le fu sempre fatto pesare fino all'ultimo il fatto che lei non fosse nobile e il fatto che che appartenesse a una famiglia di nessuna tradizione aristocratica. Quindi lei si sentì snobbata per tutta la vita, sia dagli Estensi che dai Gonzaga. Isabella non fu per niente tenera con lei, anche perché pare che Lucrezia divenne l'amante anche del marito di Isabella, divenne l'amante di Francesco Gonzaga, anche se probabilmente fu un amore platonico, perché si incontrarono pochissime volte e io credo che Lucrezia, non, così da come la percepisco io, non fosse realmente interessata ad atti carnali. Quello che lei voleva era un po' di cavalleria, era un po' di cortesia nei termini poetici, cioè la cortesia cavalleresca, no? Che quindi si esprimeva con poesie, con opere d'arte, con corteggiamenti platonici, e Francesco Gonzaga le dava questo, glielo dava, perché sentiva che Lucrezia era vulnerabile. Quindi a Francesco non piaceva tanto sua moglie, che invece doveva essere un caterpillar, perché era a tutti gli effetti una guida politica, una statista, mentre piaceva moltissimo Lucrezia perché la riteneva debole, fragile, vulnerabile e bisognosa di protezione. Quindi ci fu questa sorta di intesa, perlomeno tramite lettere, tra Lucrezia e il cognato, Francesco Gonzaga, il marito di Isabella, e questo mandò chiaramente Isabella su tutte le furie, quindi passò quasi tutta la sua vita a cercare di screditare Lucrezia fu, insomma, non fu per niente amata né dagli Estensi né dai Gonzaga. L'unica che le volle bene fu Elisabetta Gonzaga, cognata di Isabella e sorella di Francesco, che era una donna buona, quindi non ebbe mai nemici Elisabetta, e quindi accolse con favore e con amicizia anche Lucrezia, nonostante la sua fama. Ecco, una cosa inquietante veramente è che lei era veramente considerata l'avanguardia dell'esercito borgiano, cioè Cesare a tutti gli effetti la usava come merce di scambio per continuare ad aumentare sempre più i suoi possedimenti e inoltre era costantemente in vetrina, era sulla bocca di tutti questa Lucrezia Borgia e la sua corte era piena di spie, quindi tutti quanti sapevano tutto quello che lei faceva, lo sapeva il re di Francia, lo sapeva Venezia, lo sapeva Cesare, suo fratello, lo sapeva Isabella a Mantova, lo sapeva il Papa, quindi lei viveva poverina in uno stato di stress e di tensione continua perché non aveva privacy, non era mai da sola, tranne quei pochi momenti in cui poteva ritirarsi nel monastero, ma per lo più il suo dovere, diciamo, era quello di essere una donna pubblica costantemente in vetrina. Ecco, diciamo che nonostante i caratteri diversi, nonostante i diversi rapporti con i loro mariti, queste quattro donne furono a tutti gli effetti delle regine perché governarono. Lucrezia anche governò, perché spesso Alfonso era in guerra, quindi anche lei, come tutte le altre, governò e governò bene, ed erano donne che avevano un potere enorme. Erano belle, erano ricche, avevano abiti che costavano, che avrebbero potuto mantenere famiglie per mesi, per anni. Erano donne coltissime ed erano delle grandi statiste, delle donne che guidavano davvero i loro stati, avendo a cuore il destino del loro popolo. Nessuna di queste donne che io, così per come io le ho studiate e percepite, ha mai fatto esclusivamente l'interesse della sua famiglia, della sua casa o del marito. Tutte quante hanno fatto in modo che i loro territori aumentassero le ricchezze, ma per il bene del popolo, tant'è vero che il popolo le amava tutte quante e operarono sempre per il bene del loro popolo, mai per il proprio esclusivo interesse.